Yes, sir. Sei la prima che fa un viaggio dentro me e poi non molla mai. Se io non avessi te, che alternative avrei? Qualcuno ha detto già che non funzionerà, ma io non cambio idea. Retta solo a me, scelgo e riscelgo te. Sai che amarti non è mai abbastanza, è che tu sei tutto quello che mi manca. Dimmi un po', dimmi cos'altro c'è, se io non avessi te. Chiuso in sé, vegeta e non lo sa.